che George Sand fosse una sciamana nell'anima, anche nella sua vita quotidiana in campagna nel Berry, risulta chiaro dalla lettura dei suoi romanzi e racconti di magia. La magia di cui parla, infatti, è quella naturale dello sciamanismo, delle culture ancestrali native. Persino le sue fate non hanno nulla delle buone fate delle fiabe tradizionali, bensì sono cugine strette delle Yanas sarde e delle Anguane venete, ovvero esseri femminili che proteggono i luoghi e i portali vicino all'acqua, nella natura, nelle montagne e che hanno la conoscenza delle origini. In questo lungo racconto, le fate di George Sand sono esseri che un tempo furono donne e che scelsero di bere alla coppa dell'immortalità. Abbandonarono di conseguenza tutto ciò che in loro era umano e caduco, inclusa la fame, il freddo e la fatica, per vivere di saggezza e rispetto della natura sacra. Ma dovranno fare i conti con la rinuncia alla maternità, ovvero la componente femminile più magica, e in seguito anche con la rinuncia alla morte. Questo è l'aspetto più affascinante di questa meravigliosa narrazione, la morte come benedizione, come speranza, come passaggio della soglia per sperimentare quella rigenerazione sacra di cui le società matrifocali neolitiche erano pienamente coscienti quando onoravano la dea nel suo aspetto di anziana guardiana della porta dell'Ovest. L'approccio con la morte che ci offre George Sand in questa storia, che non è per l'infanzia in realtà, bensì per chi fa ricerca spirituale, è profondo, toccante, salvifico e di una serenità talmente nutriente da cambiare la nostra percezione di quella che è, alla fine, la più grande iniziazione. George Sand non ricevette una precisa formazione esoterica e spirituale, almeno non che si sappia, quindi le sue intuizioni devono essere state per forza risvegli di memorie delle sue vite vissute nei clan delle madri neolitiche. Lei sapeva. Quando necessitava di guida e aiuto, si rivolgeva a Corambè, una creatura silvestre che incontrava passeggiando nella sua terra natia, nella tenuta di Noan. La scuola delle donne propone questa delicata meditazione sulla vita, la maternità e la morte, dal titolo originale La Coupe, cioè la coppa, pubblicato in Italia con il titolo di Il crepuscolo delle fate da Red Edizioni 1987 e tradotto da Angela Cerinotti. Da Devana, buon ascolto.